известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Mr. President, has this been an embarrassing day for the administration? È stato un giorno imbarazzante per lei, Presidente? That any time one of your nominees pulls out, that's an issue. And, you know, as I've said publicly, ogni volta che uno dei tuoi si deve ritirare, devi arrivare a dare delle spiegazioni, è una questione che si apre. Shepherd through a healthcare bill. Tom Daschle era il migliore per portarci fuori dalle secche nella questione della sanità. Alla fine di una giornataccia, semmai ce n'è una, Barack Obama incassa dei titoli assai meno amorevoli e entusiastici di quelli che lo hanno circondato nelle ultime settimane. C'è chi parla di prematura fine della luna di miele, c'è chi parla di crisi del Dream Team, questo è un giornale italiano, La Repubblica parla già di crisi del Dream Team, la sensazione è che forse neanche Obama possa riuscire a ripulire Washington, lo dicono già in parecchi editorialisti, di quelli che sanno come vanno queste cose e tutto sommato ormai antepongono lo scetticismo all'entusiasmo. La questione in sostanza, proprio rifacendoci al discorso del dream, del sogno, è che forse il sogno di Barack Obama possa tramutarsi in una illusione. Se fosse così, più che di una illusione vera e propria, potrebbe trattarsi di un incubo, ma insomma i fatti sono lì, ormai sono esposti, sono chiari, in sostanza nello scegliere le personalità per creare la propria amministrazione, la sua squadra di governo, e al tempo stesso nel fissare gli standard da rispettare per poter essere degni di entrare a far parte della squadra in questione, Obama e i suoi più stretti collaboratori sono caduti in contraddizione. Nel senso che alla fine dei conti hanno voluto lo stesso persone che, a prescindere dalla loro qualità operativa, dalla professionalità, dalla potenza del loro insediamento, allorché come Tom Daschle sarebbe stato, come ha detto lo stesso Barack Obama, la migliore persona al mondo per risolvere il problema della sanità, dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti d'America, però c'erano degli scheletri nell'armadio, scheletri che definiremmo scheletrini, se visti, no, con un'ottica italiana, sicuramente perdonabili, forse anche in chiave americana, se però prima non è stata creata una griglia assai stretta, una griglia così stretta di presentabilità all'interno della quale sono sempre più numerosi i funzionari, i dirigenti, i personaggi di primissimo piano dell'amministrazione Obama che stanno restando appunto impigliati. L'ultimo e forse la vittima più illustre di questa contraddizione è proprio Tom Daschle, che è stato ex leader del Senato, è stato un collaboratore strettissimo di Barack Obama durante la campagna elettorale e che è stato difeso coerentemente dal presidente fino alla fine. Obama ha detto: sono addolorato, credo di aver fatto io stesso casino, testuali parole, did I screw up, ha detto al giornalista, anzi ai cinque giornalisti a cui si è concesso ieri improvvisamente. Barack Obama si è sentito in dovere di dare spiegazioni e ha aperto le porte del suo ufficio a tutti i principali network, che poi gli hanno fatto e rifatto insistentemente le stesse domande. Lui ha dato più o meno le stesse risposte e da bravo allenatore si è fatto carico delle colpe della squadra, ha detto in ultima analisi: il mio compito è rimettere le cose sui giusti binari e di sicuro non posso permettermi degli intoppi, dovrei parlare adesso qui con voi giornalisti, cronisti, con il pubblico, di come ridare lavoro a 3 o 4 milioni di persone, invece sono qui a giustificarmi per le dimissioni inevitabili di un mio uomo. È una ferita autoinflitta, ha detto Barack Obama, mi fa arrabbiare e nel fare questo in un certo senso ha ha legittimato, no? Ha sancito il primo grosso errore della sua amministrazione. Tra l'altro di tutto questo parleremo nella parte conclusiva della puntata di oggi di Jefferson, perché su Facebook vi abbiamo proprio posto il caso Daschle, no? la griglia etica, anche un possibile paragone con le cose di casa nostra, come si ragiona in questo senso qui dalle nostre parti, e voi come sempre avete risposto in tanti e con pareri di grande interesse che sentiremo a partire circa dalle 16:45. Ma invece voglio farvi ascoltare un altro piccolo estratto dalle interviste. Questa è ABC, dalle interviste di ieri di Barack Obama. This is completes 2 weeks in office. Yeah. Job what you expected. Due settimane che è in ufficio, che si aspetta, come si trova? Surprisingly comfortable in the job. Mi trovo assolutamente a mio agio a fare questo lavoro. We've got a great team. The una grande squadra. We've got an economy that I think is worse than anybody would have anticipated even 2 or 3 months ago. Una brutta situazione, questa è la cosa importante che ha detto, allarmante. La società, la condizione, scusate, nella quale ho trovato l'economia americana è assai peggiore di quella che potevo prevedere solo qualche mese fa. Poi dopo ha aggiunto ancora: non ci dormo letteralmente la notte, abbiamo una serie di problemi e va detto che per adesso non abbiamo una soluzione magica per risolverli, ci stiamo lavorando io e questa fantastica squadra, che ci auguriamo non continui a cadere a pezzi, se no andrà riformata di volta in volta e i lavori non procederanno spediti. Vi ricordo che anche Timothy Geithner, il segretario dell'economia, è rimasto impigliato in una di queste storie di tasse non pagate, di contributi alla collaboratrice domestica, di cachet incassati dimenticando di denunciarli al fisco. Nel suo caso è andata bene, forse perché l'urgenza era tale da non permettersi particolari dibattiti, ma insomma ormai l'inquietudine regna a Washington. Anche Nancy Killifer, la garante per lo sviluppo dei progetti economici, ha ritirato la propria candidatura per una posizione, anche questo in un momento del genere assai importante. E la conclusione del discorso è proprio quella che vi ho detto prima: c'è la sensazione che forse neanche lui, l'uomo dei sogni, possa farcela, perché ripulire e raddrizzare Washington non è cosa data da fare a una singola persona in carne ed ossa. Adesso c'ha 36 anni, Marshall Mathers, alias Eminem, alias Slim Shady. Abbiamo approfondito, ieri vi abbiamo fatto assaporare un primo morsetto, insomma, di questo rientro in scena del rapper che ha cambiato la scena hip hop americana e forse anche quella mondiale, no? Il rap di Eminem in Italia, ad esempio, ha segnato un solco. È sicuro, è garantito questo rientro con un album che uscirà a giorni, manca un mese e mezzo. Non ti vedo vibrare come vorrei vederti vibrare alla notizia. No, facevo dei ragionamenti sull'età. Ti vedo lì dedito a conteggiare le bollette. 36 anni, si chiamerà Relapse, prodotto da Dr. Dre. Vediamo che effetto fa questa notizia. Nessuno. Molto pneumatico. Rimbalza. Va bene, comunque insomma, è un oltre che un artista, una star, è anche un personaggio sociale. Lo seguiremo in questa impresa a cui mancano pochi giorni, ma adesso c'è un'altra impresa a cui vogliamo dare attenzione. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Last week, having been impeached after six years of David Letterman Show, quelli sì che sanno scegliere gli ospiti che fanno ascolto, è arrivato niente meno che Ron Blagojevich. Ladies and gentlemen, please welcome former governor Rod Blagojevich. Here we go. Sentite innanzitutto cosa gli suonano sotto. My way, io lo faccio a modo mio, eh. This is my way. Rod Blagojevich, per chi non se lo ricordasse o preferisse dimenticare, è l'ex governatore ormai dell'Illinois che ha cercato di vendersi, per dirla in parole povere, il seggio senatoriale lasciato libero da Barack Obama. E David Letterman ha fatto questo colpaccio, lo ha chiamato in trasmissione e lui ci è andato. I had to get impeached and thrown out of office. Yeah. Get a chance to get invited by you. I was looking down the records. Otto Kerner, Democrat. Adesso, siccome non è proprio buonissimo di fondo, Letterman gli sta facendo l'elenco, Emiliano, di tutti i predecessori che si sono macchiati di delitti spaventosi. E poi gli ha detto: caro Blagojevich, lei si rende conto che insomma ormai viaggia in compagnia, è sulla lista nera di queste personcine qui, vero? Governor George Ryan, currently serving a 6.5-year prison term. George Ryan, che peraltro è il predecessore di Blagojevich attualmente in galera. È una poltrona sfortunata quella del diciamo, governatore dell'Illinois. Induce in tentazione. I mean, is this just part of the oath of office that you guys take? I mean, what? How is this possible? What is that? Insomma, che cosa combinate là, gli dice. Obviously a dangerous thing, and had I known that when I ran the first time, I wouldn't have run. I'd have stayed as a congressman. But I'd like your listeners to know, and everybody in Illinois and anyone else who's listening, that unlike those, I'll be vindicated. I did nothing wrong. Questo è un uomo eccezionale, perché non è che dice, beh, effettivamente ho fatto un po' di stupidaggini. Dice, io sarò vendicato. Questa è la linea di Rod Blagojevich, e ci ha talmente indotto anche a noi in tentazioni che abbiamo preso una piccola iniziativa. Insomma, vi giriamo, come dire, siamo semplici ambasciatori, perché da umili ambasciatori, ma vi giriamo questa listarella che lo stesso Letterman ha preparato per l'occasione, una listarella intitolata 10 modi che Rod Blagojevich avrebbe per migliorare la sua immagine. Top 10 ways Rod Blagojevich can improve his image. Here we go, number 10. Numero 10. Apparire nel programma Le acconciature più ridicole d'America. Numero 9. Lasciare la politica e diventare un simpatico poliziotto ciccione. Numero 8. Cominciare a dire il suo nome così, Blagojevich. Numero 7. Offrire il seggio del Senato di Obama senza anticipo e a zero interessi. Numero 6, mettersi con John Malkovich, Erin Brekovich e fare un video porno interpretato dal trio Malkovich, Brokovich, Blagojevich. 5, il mio preferito, cambiare il suo nome in Barod Obamavich. Numero 4, atterrare sano a salvo sull'Hudson River. Numero 3, fare un salto forse a quel processo per impeachment. Numero 2, vestirsi con i tacchi alti, mettersi da donna e dire come Giuliani, you betcha. E numero 1, il modo migliore per migliorare la propria immagine? Dimettersi. Vabbè, ci siamo divertiti, no? Sì, il modo migliore per ripulirsi immagine, dimettiti, questo gli ho detto, vai. Sì, mi dispiace un po' spezzare questo clima di euforia di questo Blagojevic. Buon umore, io quando sento Blagojevic. Mi tocca vestire i panni antipatici perché devo parlare invece di situazioni tutt'altro che gradevoli. Ancora torniamo su Gaza, che è un argomento forte di questi giorni qui a Jefferson 2. Ieri abbiamo avuto anche in studio la presenza di Lorenzo Cremonesi, che è entusiasmo ma anche qualche commento critico ha suscitato su Facebook, e più tardi raccoglieremo altri pareri di voi ascoltatori. Oggi invece all'Europarlamento ha parlato Abu Mazen, presidente palestinese, che è tornato sull'intervento israeliano a Gaza definendolo un crimine, e il presidente palestinese ha fatto appello alla comunità internazionale a far sì che, leggo testualmente dal suo intervento, l'intervento militare di Israele a Gaza sia riconosciuto come un crimine, e ha ricordato poi i numeri dell'attacco israeliano: 1500 morti, 5000 feriti, 30.000 case distrutte e 80.000 persone senza casa. Tra l'altro vi dico che c'è un altro comico americano che in questo momento non ride molto, ed è Al Franken, comico, giornalista, satirico, poi improvvisamente sfidante democratico per il seggio senatoriale del Minnesota, un seggio che è ancora in ballottaggio. Di pochi minuti fa una agenzia che dice che il seggio conteso, ormai strappato l'un l'altro, da Al Franken... Ma oggi sono 3 mesi esatti. Esatto. E il senatore Coleman ancora non si sa di chi è, perché ogni volta che ricordo contano i voti non gli viene mica lo stesso numero. L'importante è non darlo a Blagojevic. Allora, un'altra notizia sempre legata al mondo medio orientale, questa volta viene addirittura dal numero 2 di Al-Qaeda, il famigerato medico egiziano Al-Zawahiri, che in un messaggio ha definito vuote le parole di Obama, che si era detto dispiaciuto per quello che era successo a Gaza con gli oltre 1000 palestinesi uccisi nella striscia. Le parole, come sempre, sono minacciose di Al-Zawahiri, che dice: il nostro nemico a Gaza non è soltanto Israele ma tutta la coalizione crociato sionista con l'America alla sua testa. Poi, con un filo di ironia per me molto inquietante, dice: ringrazio Obama per il suo dispiacere che riceviamo insieme a migliaia di proiettili e insieme a tonnellate di fosforo bianco mescolati alle lacrime e al sangue dei musulmani a Gaza. Poi il finale, anche questo terribile: in ogni caso il dispiacere di Obama non è durato tanto a lungo, visto che nel suo discorso di investitura non ha poi detto una sola parola su Gaza, come se non fosse successo nulla. Si è sentito ignorato Al-Zawahiri, non l'ha nominato, ci è rimasto male, si è sentito ignorato. Anche questa luna di miele la possiamo dichiarare abbastanza finita, forse mai cominciata. Luna di miele di Barack Obama che... Hai qualcosa? Abbiamo pochi secondi. Ma rapidamente posso dire che domenica arriva in Italia il Dalai Lama, sarà a Roma l'8 febbraio, poi il giorno dopo verrà ricevuto in Campidoglio. Ha avuto guai di salute, tra l'altro, in questi giorni. Però si è ripreso, è uscito dall'ospedale di Nuova Delhi, insomma, felicemente, sta bene, il 73enne leader dei tibetani. Riceverà la cittadinanza onoraria di Roma e poi il 10 a Venezia, quindi per le due città, momento importante con l'arrivo del Dalai Lama. Bene, adesso festeggiamo a modo nostro quello che ieri abbiamo annunciato solo sui titoli di coda della trasmissione: i 61 punti di Kobe Bryant al Madison Square Garden. Belle notizie. Nuovo record che così mette in ombra perfino Michael Jordan. C'è un signore, un grandissimo artista che si chiama Randy Newman, che da anni è un orgoglioso losangelino che piglia in giro gli abitanti di New York. Dopo una batosta del genere, sentite come. Day. I'm arrivati. Allora abbiamo un ospite in studio, si chiama Antonio Fazio, si occupa di comunicazione con grandi clienti di tutto il mondo, nomi della primissima fascia, Kodak, Hewlett Packard, Cisco, Telecom, BMW e tanti altri. Viaggia per il mondo, Stati Uniti, ma anche e particolarmente Cina, e poi d'improvviso, e qui ve lo presento e gli chiediamo immediatamente una spiegazione, pubblica un romanzo per l'appunto ambientato in Cina. Allora, prima di tutto buon pomeriggio Antonio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Poi il titolo del romanzo me lo pronunci tu, così non sì, incorriamo. È quasi impronunciabile, perché è Yang Guangzhou. Yang Guangzhou. E Shanghai Noir. Shanghai Noir è il genere, se me la passi. Esatto. E allora, raccontaci perché, come ti è nata questa idea, insomma, come hai pensato alla fine di trasformarti, certo, part time in scrittore di noir ambientato in Cina. Beh, diciamo che il mio mestiere è scrivere, avendo un'agenzia di comunicazione certo, occupandomi di pubbliche relazioni, chiaramente sono, diciamo così, parte di questo mestiere e fa anche parte di un mio percorso precedente. L'idea nasce poi, fra l'altro, anche dal confronto con alcuni amici giornalisti con i quali abbiamo avuto dei confronti spesso su esperienze sostenute e soprattutto anche su quella che era la vita vista dagli italiani di alcune determinate dinamiche, sia di costume che di tipo economico, che si scatenavano in questa Shanghai, che non è quella perché diciamolo, c'è comunque un tot di italiano nel libro, vero? Certo, una vicenda, certo, italiana in Cina. Assolutamente sì, il libro praticamente è un diario di viaggio visto dagli occhi di un italiano che si reca alla ricerca di un fratello, quindi un uomo che cerca un fratello artista scomparso, misteriosamente ingoiato nell'intento di aprire una galleria d'arte a Shanghai. Ecco, da qui si dipana una vicenda che ha al centro un omicidio, direi terrificante, abbastanza spaventoso, ma che poi sottende tutto una serie di valenze che vanno dal politico a quello che è, diciamo così, il tema sociale governante in questo momento, che è la libertà di espressione di idea. Certo. Ecco, quindi diciamo che il noir in realtà è un pretesto per parlare di Cina e di Shanghai in un modo nuovo, vicino. Il libro è edito da Aletti Editore, ma quindi della Cina alla sì, fine la cosa che ti andava, che avevi voglia, che avevi intenzione di mettere a fuoco in particolare nel romanzo, usando come veicolo, come pretesto il romanzo, era questo, cioè un ragionamento sì, sulla situazione sociale in Cina. Sì, sulla trasformazione dei giovani soprattutto, sui giovani che hanno voglia di affacciarsi a questo nuovo millennio con una serie di stimoli, con una grande voglia di comunità, di comunicare e di confrontarsi anche con l'estero. Quindi questo melting pot culturale che era riscontrabile nella vecchia New York, diciamo, di sì, fine secolo scorso, e che oggi invece si è trasferito in questo nuovo baricentro magmatico che è Shanghai, e che direi sicuramente, visto poi adesso il tema dell'Expo, certo, ci si avvicina sempre di più. Oh, tu di mestiere hai il compito, ma anche, diciamo, il problema di comunicare, di far arrivare, certo, messaggi forti e chiari, e hai anche certamente di fronte questo straordinario nuovo bacino di pubblico, no? Che sì, è il pubblico cinese, con le sue curiosità, ma anche con le sue ingenuità e con i suoi sì, linguaggi. Come ti sei posto questo problema ogni qualvolta ti si è presentato, e quale piccola soluzione magari hai elaborato e puoi anche suggerire? Come si parla soprattutto a questo pubblico di giovani cinesi, o comunque più ampiamente di cinesi, da cui tanti poi sono allettati come possibile, certo, pubblico consumatore? Certo. Ma ecco, come tu ben sai, i cinesi tendono a non dire mai di no. Quindi si parla con il sorriso, si parla con la cortesia, con l'arte del guanxi, questa parola magica che significa famo a capisse, per dire, certo, in italiano, visto che stiamo a Roma. Certo. No, ma anche vuol dire creiamoci delle relazioni, creiamoci dei rapporti favorevoli che ci aiutino a fare strada insieme. Ecco, quindi in questo senso mi piace questo aggancio di Jefferson 2, dove in Cina si vede anche una propensione a un atteggiamento obamiano, quindi a icone che riescono a spostare verso il dialogo un rapporto di braccio di ferro che, come Sun Tzu e gli altri saggi cinesi suggeriscono, non è mai conveniente per fare affari. Secondo te un personaggio come Obama ha smosso, ha agitato le fantasie, anche i desideri, o comunque insomma gli orizzonti dei, soprattutto dei più giovani delle città cinesi? Assolutamente sì. Io credo che Obama, oltre ad aver agitato i sogni di tanti giovani come anche i nostri, certo, credo, certo, stia agitando i sogni di tanti giovani cinesi che oggi attraverso Facebook lo conoscono, che ricevono, che si iscrivono alle sue iniziative, che ricevono via internet addirittura l'invito alle sue riflessioni, ai suoi incontri, ai suoi video, e quindi che vedono un uomo che per la prima volta entra nello studio Ovale in camicia, esattamente come qui, perché fa, certo, un caldo clamoroso. lo so. Esatto. E quindi entra in camicia e si mostra, se vogliamo, nella stessa chiave di comunicazione che usavano i vecchi leader comunisti, che invece di arrivare con i gemelli d'oro si presentavano, diciamo così, in una chiave di comunicazione visiva che fosse il più possibile vicina a quella della gente, orizzontale, ecco, certo, esatto, certo. Oggi i giovani cinesi vorrebbero probabilmente dai loro leader una svolta di questo tipo. È sempre più forte l'interesse e il richiamo verso queste figure di leader vicini anche al costume, alla sensazione, a tutto quello che può essere l'immaginario anche dell'identificazione dell'individuo. Ecco, invece spostandoci, dimmi, anzi lasciando un attimo la Cina e spostandoci invece più vicino proprio a Obama, abbiamo occupato la prima parte del programma a raccontare, no, di questi primi inciampi, questi primi incidenti di percorso, queste scuse, questo mi sono fregato da solo che ha esploso ieri in modo molto spontaneo in televisione. Tu ti occupi, immagino, anche di immagine d'immagine pubblica. Come reagisci a questi, no, segnali, primi segnali di disillusione mediatica nei confronti di Obama, insomma questi primi spartiacque fra sogno e illusione che vengono pronunciati con un certo cinismo dalla stampa internazionale? Ma guarda, io devo dire la verità che sono stato fin dall'inizio, e chi mi è vicino lo sa, un sostenitore di Obama tra i più ferventi. Addirittura all'inizio del percorso elettorale ho avuto la fortuna di entrare in contatto con lo staff, soprattutto per il mestiere che faccio, operando nelle pubbliche relazioni, e anche, diciamo così, di dare un contributo a livello di cassa di risonanza sul territorio italiano per quelli che potevano essere degli impegni nel sensibilizzare alcuni personaggi, alcuni opinion leader. Quindi c'è un contatto costante, devo dire che mi diverte molto il modo con cui lui continua a porgere ultimamente. Chi è all'interno delle community di Obama avrà ricevuto ieri sera la sua email che invita a seguire su YouTube e sui suoi siti questo Recovery and Reinvestment Plan, certo, che coinvolgerà 3 milioni di persone. Come lo farà, come lo racconterà, beh, sarà molto importante, perché in questo momento tutti fanno grandissime dichiarazioni di intenti, pochi riescono a vincere, qualcuno convince, ma il risultato poi sappiamo è quello di portarsi dietro la gente e riuscire a coinvolgerla affinché ognuno dia il proprio contributo. Io credo che Obama abbia una marcia in più in questo. Quindi però anche questo apprendistato non ti preoccupa più di tanto? No, insomma, io trovo che sia geniale. Anzi, sia umano, sia geniale, può sbagliare. Sia uno dei suoi grandi punti di forza, forse il punto di debolezza magari potrebbe essere quello legato a quella leggera sovraesposizione mediatica che c'è stata nelle primissime ore, no? Che forse non è stata orchestrata nel migliore dei modi. Ultimo argomento, vorrei parlare con te di Facebook. Ne abbiamo già accennato fuori onda, ma mi sembra di capire che, in sintonia anche con quelle che sono le nostre modeste, così caserecce intuizioni qui in trasmissione, anche tu, Facebook o social network in genere, siano argomenti che ti affascinano perché veicoli rapidi. Dimmi tu. Allora, io ho avuto una grande fortuna perché molti anni fa, con la nostra agenzia di comunicazione Baum, ha avuto l'incarico per Telecom Italia di gestire un grandissimo progetto che era il portale delle scuole italiane, oltre 5.200 classi, è uno dei primissimi esperimenti di crowdsourcing, ovvero di far sorgere contenuti dai giovani, dai ragazzi. Devo dire che questo progetto mi ha consentito di toccare con mano il potenziale del valore della partecipazione. Quindi Facebook oggi è, se vogliamo, la sintesi di questo potenziale. Io non credo nell'eccesso di critica critica che qualcuno fa a Facebook tacciandolo come la vetrina dell'egotismo a tutti i costi. Io credo invece che sia una grande chiave di liberazione. C'è anche una grande voglia di comunicare, voglia di comunicare. E poi non so se sei d'accordo, ma una cosa che mi sorprende di Facebook, su cui vale la pena ragionare, forse non lo si fa abbastanza, è che è uno dei pochi nuovi media, se vogliamo chiamarli così, tranquillamente transgenerazionali, no? Non ha sopra un marchio di appartenenza d'età, che dici? È vero, devo dire che trovi veramente di tutto. Io ovviamente ho nel mio network amici che vanno da scrittori a persone più giovani, però quello che emerge è che è multiculturale, ovviamente, sicuramente anche rompe le barriere dell'età, ma poi ha un altro grandissimo potenziale, che crea aggregazioni costantemente nuove. Certo, è una carta moschicida anche delle emozioni, dove restano appese certe voglie, magari inespresse, non sempre le migliori. Qualche volta c'è anche qualche elemento regressivo, diciamo. Ma è un'ottima cartina al tornasole di come gira l'umore, di come gira l'orientamento dei giovani. Bene, questo è Antonio Fazio. Torniamo a ripetere il titolo del libro, tu mi aiuterai di nuovo. Ma con piacere, Yang Guangzhou. Benissimo, Aletti editore, un thriller ambientato in Cina, dove seguendo le orme di personaggi italiani, poi ci si avvicina e si scoprono le tematiche di cui ci ha parlato Antonio. Tra poco noi facciamo Facebook, se vuoi restare con noi sei con molto editore. Piacere. Va bene. Sapete, no? Cosa vuol dire questa sigla, anche se si sposta così all'interno dell'acquario del programma? È il momento in cui ascoltiamo i vostri pareri, quelli sulla base dei ganci, degli spunti che vi lanciamo la mattina o a tarda notte, a seconda di come capitano le cose. Oggi abbiamo parlato di griglia etica del caso Daschle, ma ci sono ancora delle cose in sospeso da ieri su cui vogliamo tornare, alcune missive relative agli ultimi argomenti, in particolare all'argomento di Gaza su cui siete intervenuti ieri, su cui vale la pena dire ancora delle cose, Emiliano? Sì, riprendiamo il filo del discorso appunto iniziato ieri con Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che è stato nostro ospite negli studi milanesi ieri. Noi già ieri abbiamo sottoposto alla vostra attenzione le nostre sollecitudini, le sollecitazioni, perché insomma Cremonesi, soprattutto con i suoi ultimi articoli sul Corriere, ha posto dei dubbi sul numero delle vittime a Gaza, che potrebbero essere la metà dei 1300 annunciati dalle autorità palestinesi, e vi abbiamo chiesto un parere, quale reazione poteva provocare questa possibile diversa lettura di un avvenimento grave e importante come l'attacco a Gaza. E naturalmente le reazioni sono contrastanti, c'è per esempio Elisabetta che dice: cerco di informarmi un po', le notizie sono spesso talmente diverse e contrastanti che alla fine mi trovo ad essere sempre più confusa, ma la verità chissà dov'è? Poi c'è invece Rosanna che è decisamente contro Israele, perché dice: ammetto che l'intervento di Cremonesi mi ha un po' colpita e agitata, tuttavia quando si parla di Israele e Palestina mi dispiace, ammetto la mia partigianeria, non riesco ad osservare con obiettività, i bombaroli sono gli israeliani. Invece decisamente contro Hamas è Cristiano che dice: sarebbe il caso che certa opinione pubblica la smettesse di nascondersi dietro un dito dicendo che Hamas è un soggetto con cui, volenti o nolenti, la diplomazia si deve confrontare. In questo momento CNN apre con la notizia, break news, che una delle nuove idee all'interno dell'ufficio di Barack Obama, stamattina se la sono messo lì, non sapevano bene che fare, c'erano poche di topiche da cavare, e allora hanno deciso di studiare il modo per riaprire le linee aeree con Cuba, che visto quanti sono e come vivono potrebbe essere un'altra notizia così piuttosto impressionante di questo esordio di Obama. Che però, come dicevamo in apertura, ha anche i suoi inciampi, no? Le dimissioni ravvicinate, i guai di Geithner, le dimissioni di Richardson, adesso Tom Daschle che è finito nei guai e ha dovuto dire: scusate, ma vado a espiare quello che ho combinato, non pagando $140,000 di tasse. Ci hanno fatto venire in mente di stimolarvi proprio sul confronto, quello che abbiamo chiamato la griglia etica, nella quale restano impigliati, no? Volenti o nolenti, le stesse brillanti scelte del team Obama. Vediamo che cosa ci avete detto. Dunque, Luther dice: ma a me pare si stia un po' esagerando, non puoi segare una persona perché non ha pagato per un brevissimo lasso di tempo i contributi alla Colf. Che ne dici, Antonio? Direi che insomma non mi sembra che ti tratti i contributi alla Colf. Che era qualcosa un po' più grosso in questo caso. Vorrei essere la Colf. Giovanni dice: sono d'accordo con Obama, se questi personaggi sono così capaci perché incorrono in errori fiscali grossolani? Saggezza. Proiettare ciò in casa nostra sarebbe sparare sulla Croce Rossa, anche questo mi piace. Sandro: se Obama si presenta come nuovo uomo di una nuova frontiera deve pagare alcuni prezzi, magari alti, anche questa saggezza. Guardiamoci indietro, la morale e il moralismo americani fanno prestare il fianco e demolire quando serve anche chi non ha pagato $100 di contributi alla Golf. Siamo severi qua, sempre la Golf al centro dell'attenzione. Forse è questo che impressiona, perché se era un'altra cosa... comunque, andiamo avanti. Va. Giuseppe scrive: la crisi è crisi, i tagli servono anche se toccano i pezzi da 90, poi calmate le acque, si può sempre tornare indietro e riguadagnare consensi tra le lobby, ma per ora non me la sento di biasimare Obama. Emiliano, qui c'è... Qui sono dubbi, sono crisi. Vogliono insomma che Obama poi rispetti gli intenti anche di pulizia, di trasparenza e di cambiamento. Che resti Obama, che resti Italia, appunto. Faccia l'Obama. Fammi l'Obama. Sandro dice: l'inflessibilità etica è connaturata, almeno formalmente, alla prassi politica degli Stati Uniti. Matilde dice: quello di Obama sarà anche un comportamento esagerato, però trovo che come metodo sia più efficace. Matteo: considerato il nuovo corso promesso da Obama, direi che l'intransigenza potrà dare fastidio e notti insonni in fase iniziale, ma sul lungo periodo sarà l'arma vincente. Giovanni: se cambiamento ci deve essere, è bene cambiare. Io ne terrei presente, che dice Antonio? Sì, direi che è un messaggio che veramente sarebbe bellissimo, forse anche... venisse raccolto anche a casa nostra. E ancora, siete ancora in tanti, ma il tempo sta stringendo. Guardo sempre con molta ammirazione il rigore, Renzo, questo, guardo sempre con molta ammirazione il rigore e il riguardo, a volte velato, perfino l'ingenuità con cui gli statunitensi trattano le loro istituzioni. Dario: rifugo da ogni integralismo anche moralistico, ma bisogna pur porre dei paletti che non si spostino con troppa facilità, ci piace anche questo. Sergio: sbaglio o stiamo parlando del paese che ha messo in galera uno come Capone sanzione per evasione fiscale. Non scherziamo, ecco il bonus. Alessandro, inflessibilità etica assoluta, altrimenti finisce come in Italia. E cari americani, che questo no, vi suoni a morto. Di ammonimento. A morto. L'hanno ascoltato due anni di campagna elettorale, perché quella è gente che lavora sul serio per guadagnarsi un posto, e adesso mi sembra i nostri ascoltatori fondamentalmente vogliono Obama duro e inflessibile, che insomma, faccia quello che ha detto. Hai detto che vuoi ripulire, bene, prego, ecco la scopa. Ancora di nuovo grazie a Antonio Fazio, nostro ospite oggi qui in trasmissione. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, che oggi può salutare in voce, essendo qua in saluto anche momento. Gli ascoltatori. Regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro La Corte. Poi ecco il lungo elenco degli indirizzi, la mail è jefferson2@radio24.it. Il 2 in questo caso è il numero, che però invece diventa parola se volete cercarci su Facebook, dove abbiamo due siti ormai frequentatissimi e ne siamo felici. Uno si chiama Redazione Jefferson 2, scritto in parola, ed è il sito per parlare con noi, contattarci, darci stimoli, idee, sottoporci materiali e quant'altro. Invece se volete intervenire nei dibattiti che fanno capo poi qui alla trasmissione, alla diretta, cercate Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, che è il nome dello spazio interattivo. Poi sul sito della radio trovate tutto, www.radio24.it, trovate la replica del programma a mezzanotte, se gliela fate, come si dice a Roma. La diretta domani attorno alle 4, come sempre qui su Radio 24. Ci risentiamo, grazie. Yeah,